forse il rimanere soli fa scorrere i pensieri e sudano le mani. Forse è meglio non pensare niente, non devono gli ieri sconvolgere il domani. Un momento è solo un'altra volta, se è andato poi non torna più. Al tramonto poi ancora un'alba seguirà. E non rimanere soli, non bastano i pensieri, ci vuole un po' di più. Cercare adesso la memoria, per mano in una via, l'inizio di una storia. Poi un bacio cercandola negli occhi, un sorriso e poi guardare su. Una luce bagliore, una stella, seguirai. Poi l'amore come poesia scoppia dentro questa melodia. L'emozione, momento di magia, sensazioni dentro di te. No, no.